Radio 24 Reportage. Vicini a distanza. Storie di condominio alla Garbatella. Di Teresa Trillò. Ecco il mio piano, mi aiuta molto in questo periodo. Io e mio marito siamo venuti in questa zona per essere vicini ai nostri tre nipotini, che al momento possiamo solo vedere dalla finestra. Pazienza, ho grande fiducia che tutto questo sarà superato e potremo di nuovo giocare tutti insieme. Auguriamocelo. Mia moglie ha il suo Bach. Io ascolto, rileggo i miei autori più amati, esco con il nostro cane, oggi compagno ancor più fondamentale, e eseguo come posso i miei katà preferiti. Abbiamo organizzato sulle rispettive soglie di casa il tè delle 5 con la nostra vicina ed amica. È un appuntamento di socialità solidale assolutamente consigliabile. Auguri a tutti noi. Siamo a Roma, alla Garbatella. Nei tanti condomini del quartiere la vita scorre con ritmi diversi rispetto al passato, non proprio remoto. Qui, in un grande condominio costruito subito dopo la guerra, Giancarlo e Grazia, pensionati settantenni, hanno riorganizzato la loro vita come molti in queste settimane. A primavera, nei vialetti del grande giardino dove sono immerse 16 palazzine, le voci dei bambini scandivano il ritmo del pomeriggio. Finiti i compiti, i più piccoli, ma anche gli adolescenti, si ritrovavano nei viottoli del giardino. Si giocava a campana, a pallone, si andava in bicicletta e i grandi scambiavano quattro chiacchiere. Quest'anno la primavera non è la stessa. Oggi, ai tempi del coronavirus, il grande giardino condominiale è sempre vuoto. Le voci sono scomparse, nessuno più gioca libero fra i vialetti. C'è chi scende per una rapida passeggiata o per una corsetta. Chi attraversa il condominio per andare a fare la spesa nel negozio di quartiere e chi si affaccia al balcone e fa quattro chiacchiere con il vicino, rigorosamente a distanza di sicurezza. Gianni vive in una delle 16 palazzine da oltre 20 anni, è ingegnere, lavora in una multinazionale informatica e lo smart working da coronavirus non lo ha colto di sorpresa perché, racconta, nella sua azienda è una realtà da tantissimi anni, ma la quarantena ha stravolto i ritmi e lui prova a reinventarsi la giornata. Dal punto di vista lavorativo la giornata è lunga ed impegnativa, tant'è vero, insomma, la sera sono veramente particolarmente stanco. Sto cercando di fare il più possibile attività fisica in casa. Mi sto imponendo una certa sistematicità negli orari, quindi mi alzo la mattina, faccio lo step, poi a metà mattinata faccio un po' di esercizietti così per sgranchirmi, il pomeriggio faccio stretch e la sera, per quanto possibile, scendo nel cortile, perché avendo la fortuna di vivere in un condominio con un cortile recintato e chiuso al passaggio, faccio circa una quindicina di giri. Io sono un grande camminatore. Martina e Ludovica sono le figlie di Gianni, studentesse universitarie. Martina è al quinto anno di legge alla LUIS, segue corsi online, molto ben organizzati, spiega, studia e si preoccupa un po' per gli esami. Certo, è più complesso per quanto concerne la modalità d'esame, perché molto probabilmente questa situazione di quarantena durerà fino a maggio e noi saremo costretti a stravolgere completamente le modalità a cui eravamo abituati, quindi sarà più complesso stare dietro i professori. Ludovica studia moda all'Istituto Europeo del Design, è al secondo anno e per lei le lezioni online sono un problema perché, dice, non c'è interattività come in aula, ma per il resto la quarantena ha anche i suoi lati positivi e i social sono di grande aiuto. Diciamo la sto vivendo meglio di moltissime altre persone, non mi annoio mai in casa. I social in questo ci aiutano tantissimo. Io personalmente condivido su Instagram, dove sono seguita da 600 persone, quindi comunque è un bacino d'utenza notevole per una persona sola, benché ci siano persone che sui social abbiano milioni e milioni di seguaci, e condivido giornalmente alle 6 il bollettino della protezione civile. Quindi in realtà noi ragazzi, benché sembriamo sempre quelli un pochino più distanti da quello che ci accade intorno, in questo caso possiamo sfruttare facilmente i social per diffondere notizie. Super tecnologici sono anche i gemelli del piano terra. Tommaso e Filippo, 12 anni, seconda media in classi separate, usano computer e social, seguono le lezioni online, ma preferiscono la scuola reale. Le lezioni online sono sicuramente comode, per stare a casa, per riposarsi, ma a livello didattico è molto meglio andare a scuola, perché facciamo scarsa un'ora al giorno di studio, poi ci sono i limiti di tempo, facciamo comunque poco, molto poco. L'esperienza di Filippo com'è? Noi avevamo molte persone in classe che non riuscivano a seguire bene e adesso si sono proprio perse. I professori stanno cercando di recuperarle, ma è molto difficile, anche perché le lezioni online col programma che utilizziamo noi hanno un limite di 40 minuti ed è difficile fare una lezione in 40 minuti. E voi come trascorrete la giornata? La mattina ci dedichiamo allo studio, il pomeriggio invece ci rilassiamo, a volte giochiamo con la PlayStation, leggiamo, giochiamo col telefono, giochiamo anche a carte a volte con mamma e papà. Ma non uscite? No, allora a volte io esco con una mia amica per buttare la spazzatura, anche Tommaso viene. Tommaso, tu che contatto hai con i tuoi amici? Ci sentiamo in videochiamata, però non ci sentiamo quasi mai, non ci possiamo vedere, non possiamo uscire, ci sentiamo pochissime volte. Che cos'è che vi manca della vita di tutti i giorni? A me sinceramente manca andare a prendere il gelato, manca poter uscire, questo, la libertà. E a te Filippo? A me manca vedere gli amici, uscire, giocarci, fare due tiri a pallone. Gli scout. Cosa farete il primo giorno di libertà? Sicuramente usciremo, saremo tutto il giorno fuori, perché a casa non ci staremo sicuramente. Claudio, ex vigile urbano, è in pensione da 9 anni, conosciuto da tutti nel condominio, dal suo terrazzo del terzo piano getta un'occhiata in giardino in attesa di tempi migliori. Siamo praticamente agli arresti domiciliari. Tanta televisione, leggiamo giornali e io poi mi attivo nel modellismo che faccio da tanti anni e ho finito la nave, che c'aveva un galeone che è il Vasa del 600, una nave svedese. Scendo, faccio il giretto qua, un po' a biciclette, qualche film in televisione e questa è la vita. Flavia e Luca, laureati in economia, sono a casa in smart working, una casa condivisa con i loro 3 figli. La giornata, racconta Flavia, è complicata da gestire. Si può fare anche se è molto faticoso, perché noi abbiamo 3 bimbi piccoli di 3, 7 e 9 anni, dove quelli di 7 e 9 anni stanno facendo anche la didattica a distanza e quindi non è sempre così semplice coordinarci durante la giornata per lavorare e seguire i bambini nella didattica. Qual è l'aspetto più faticoso della giornata? Innanzitutto il rapporto H24 tutti quanti insieme è molto faticoso, perché in una condizione normale i bambini passano 8 ore a scuola e si interfacciano con le insegnanti, mentre qui il genitore deve ricoprire il doppio ruolo, quello di genitore e quello di insegnante, quindi questo crea delle difficoltà. E in più stiamo cercando di occupargli la giornata senza l'utilizzo di televisione e cellulari, quindi avendo età un po' diverse, anche sessi diversi, perché abbiamo una femmina e 2 maschi, alle volte si creano delle tensioni dentro casa dovute anche al fatto che non riescono a sfogarsi all'aria aperta e a correre. Dal punto di vista lavorativo è impegnativo, perché si passa molto tempo in video call proprio perché non c'è più la presenza fisica negli uffici, quindi si lavora anche di più perché non c'è più un orario che uno esce dal lavoro e quel che ha fatto e inizia poi la vita personale, ma il lavoro si protrae tutta la giornata e in più passando molto tempo in video call con dei bambini sotto che svolgono altre attività non è proprio semplice. Simona non lavora in smart working, 44 anni, un figlio di 10, un marito macchinista della metro, uno dei pochi che tutti i giorni va al lavoro per garantire un servizio essenziale alla città. Simona è una parrucchiera, il suo negozio di Monteverde Vecchio è chiuso da più di un mese. Non lavoro e quindi non guadagno, come tutti i commercianti ho grosse difficoltà. Spero che lo Stato faccia qualcosa per i commercianti. In questo momento riesco ad andare avanti solo perché ho risparmiato e ho ancora un po' di soldini da parte per andare un pochino avanti e pagare l'affitto, pagare lo stipendio alla mia ragazza, poi bollette e fornitori che avevo fatto ordini in precedenza che stavano in scadenza e tutto ciò che riguarda le spese di un negozio che comunque anche se è chiuso non si fermano. L'emergenza coronavirus a Marina ha portato la sua prima supplenza. 30 anni, 2 bimbe, Clelia e Lea, una laurea in filosofia, Marina è in attesa di discutere la tesi per diventare insegnante di sostegno e da pochi giorni ha iniziato a insegnare italiano in una scuola elementare privata. È un'esperienza nuova, molto bella. La mattina faccio 4 moduli di lezione da mezz'ora. I bambini sono piccoli, sono di prima e di seconda elementare. Ho 10 faccine che mi compaiono sul mio schermo e con loro porto avanti il programma di italiano. Alterniamo attività ludiche e attività più, diciamo, didattiche in senso stretto. I bambini si sono subito ambientati molto bene. È anche un modo per raggiungere le famiglie, perché le famiglie finalmente vedono nel vivo il lavoro di un insegnante e questo sta aiutando moltissimo noi insegnanti in primis, i bambini e i genitori a vivere questa strana situazione di coabitazione in casa mentre i genitori lavorano, i bambini dovrebbero studiare, insomma siamo tutti un po' disorientati, ma questa cosa della scuola che entra nella casa è davvero un bel filo rosso che sta continuando. E poi c'è Clelia, 5 anni e mezzo, a casa da oltre un mese, disegna e gioca con la sorellina Lea, poco più di 2 anni. Clelia legge libri con Papà Luca, vive nel suo mondo fiabesco popolato di miti greci e sogna il giorno in cui tornerà a scorrazzare nei prati. Andare al mio compleanno, andare a mare, andare a fare le vacanze e andare poi anche da nonna a Gussago e stavi in provincia di Brescia. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.